bisogna approcciarsi a questo chiamato fenomeno con molta oculatezza. Usciamo da un periodo molto complicato, speriamo di uscire dai 2 anni di pandemia, e credo che possa essere tranquillamente non spiegato direttamente, ma contestualizzato in una situazione di grandi privazioni che si sono subite a livello proprio di rapporti sociali. Il fatto di ritrovarsi in questo gruppi più o meno piccoli e compiere gesti di violenza oppure ritrovarsi in situazioni di grande criticità vada contestualizzato in questo modo. E quindi, come dire, probabilmente qualcosa che affiorerà nei prossimi tempi in maniera anche maggiore. Il problema è non farlo diventare un problema di ordine pubblico. Sarebbe il più grande errore che si possa commettere, perché non è sicuramente questo l'approccio. Da tanti anni lavori con ragazzi appunto dell'istituto minorile appunto del Pratello. Sono ovviamente ragazzi che hanno commesso dei reati, per quello che si trovano lì. Hai avuto modo di indagare su quali sono le ragioni che li spingono ad esempio appunto a commettere reati? Io lavoro con ragazzi che sono in misura di detenzione, ma lavoro anche con tanti ragazzi che sono in carico ai servizi della giustizia in alternativa alla detenzione, quindi sono ragazzi in comunità o sono domiciliari, e quindi partirei più da questa realtà, che sono ragazzi che vivono una vita normale, non con delle limitazioni, e dalla mia esperienza di tutti questi anni il mio fare con loro teatro è farli giocare in situazioni in cui l'individualità si ritrova assieme ad altre individualità, ad altre persone diverse da loro, quindi non solo con coetanei ma con persone più grandi, con senior, e il fare teatro diventa l'occasione collettiva di riconoscersi in un altro modo, di investire le proprie emotività, e tutto questo permette il far fiorire dei momenti estremamente intensi di rapporti tra persone. Non li riconosci più questi ragazzi in un contesto teatrale, e neanche loro si riconoscono più per quello che sono etichettati. Certo. Il teatro diventa un potente strumento di trasformazione. Tu appunto in questi laboratori che compi hai modo di indagare con loro, appunto spingerli a riflessioni, e vorrei chiederti una cosa sul tema della violenza. Ha una funzione sociale o anche emotiva personale? Questa è una domanda estremamente complicata. Io dal mio punto di vista, dal mio operare, cerco sempre di trasformare quelle che sono conflittualità che vanno verso la violenza, di trasformarle in un conflitto che nel teatro ha una, come dire, soluzione. Quindi è sempre trasformare queste tensioni in qualcosa che va verso una soluzione positiva e non negativa, come può essere il gesto violento. Tu dicevi l'approccio che considera questi episodi come una questione di ordine pubblico è un approccio sbagliato. Quale potrebbe essere invece un approccio giusto? Provocatoriamente direi invece di riprenderli, fare delle identificazioni visive, facciamo dei casting teatrali, cerchiamo di contattarli, di agganciarli per fargli fare qualcosa d'altro, di proporre direttamente qualcosa d'altro. Qualche giorno fa lo stesso sindaco aveva parlato più teatro e meno carcere. Proviamo a giocare il fatto che il teatro può essere veramente un grande veicolo di trasformazione anche in questi momenti di così grande disagio che viviamo. Quindi insomma, giustamente poi tu ti occupi di teatro e quindi conosci bene le potenzialità di questo strumento. Più in generale è una questione anche di opportunità offerte? Certo.